Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Solite informazioni di servizio, radio24.it è il nostro sito dove troverete la possibilità di scaricare via podcast, anche con abbonamenti, tutte le puntate di tutte le trasmissioni. La seconda informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, sempre più, devo dire, contattata. Di questo ovviamente ringrazio tutti, ed è unabusoalgiorno@radio24.it. Mail che è stata raggiunta alcuni giorni fa, alcune settimane fa, da Giovanni Rizzi, che è un architetto milanese che ha avuto un problema. Peraltro, a seguito invece di un rapporto soddisfacente nel passato con Fineco Bank. Fineco Bank è stata già nostra ospite, devo dire che si rende sempre molto disponibile, quindi io intanto saluto il nostro radioascoltatore Giovanni Rizzi. Buongiorno Rizzi. Buongiorno a lei. E poi saluto anche il dottor Massimo Maggioni, che è responsabile del contatto e della soddisfazione della clientela di Fineco Bank. Buongiorno Maggioni. Buongiorno a voi. Allora, Rizzi, ci spieghi un pochino cosa è successo con Fineco Bank. Prendiamo in considerazione questa sua segnalazione nei confronti di Fineco, ma sono poi casi che accadono anche con altri istituti di credito, quindi vale questa segnalazione anche per situazioni simili con altre banche. Però rimaniamo nello specifico. Rizzi, allora, che cosa è successo con questa banca? Allora, io semplicemente ho aperto un conto Fineco perché volevo separare le questioni di studio, avendo già un conto professionale, da quelle personali, e volevo approfittare anche degli strumenti della Fineco per non dover pensare più tutti i mesi ad alimentare un altro conto su cui ho l'addebito della rata del mutuo e un bonifico che devo fare mensilmente per questioni familiari. Quindi ho attivato tramite il conto Fineco un'alimentazione automatica, cioè praticamente la Fineco ha emesso un RID in appoggio sulla banca del conto professionale di alimentazione del conto Fineco tutti i mesi, e dopo questa operazione ho disposto due bonifici continuativi ad altri due conti. Quello che è successo è che l'alimentazione automatica non ha funzionato. Io, pensando che invece funzionasse, ho continuato a spendere i soldi. A un certo punto il conto è andato in rosso, mi sono trovato le carte bloccate e i bonifici che avevo disposto non eseguiti, e quindi tra l'altro con il conto su cui mi veniva addebitata la rata del mutuo non alimentato, no? Certo, quindi insomma, per riassumere, mi pare di capire, per rendere un po' in soldoni in maniera tale che tutti possano capire, lei aveva frazionato i suoi conti tra professionali e privati con Fineco Bank, in maniera tale che ci fosse una specie di passaggi a catena che si alimentassero l'uno con l'altro e che alimentassero anche conti esterni, addebiti esterni. Esatto. Esattamente. Per non avere il pensiero di dovermi ricordare tutti. Esattamente. Lei insomma ha aperto questa specie di catena, no? In cui ogni anello poi, come in una cinghia di trasmissione, alimentava l'altro, in maniera tale che si potesse poi essere tranquilli che tutto veniva regolarmente ogni mese alimentato. Così invece non è stato, e lei ne ha subito un danno perché si è visto andare in rosso. Insomma, è una situazione sicuramente non piacevole. Allora io direi di fermarci qui, a meno che lei non abbia altre cose da aggiungere. Poi veniamo alla seconda parte della segnalazione sul call center, però poi ci andiamo sul call center. Invece per la prima parte ha qualcosa ancora da raccontare, Rizzi? No, direi che quello che era accaduto era questo, e io ho soltanto cercato di capire qual era il problema. Benissimo, allora chiamiamo quindi in questo momento in causa il dottor Maggioni, responsabile, come abbiamo detto, dei rapporti con la clientela di Fineco Bank. Allora, a suo giudizio, Maggioni, che cosa è successo? Anzitutto buongiorno, anzitutto ringrazio il cliente per la segnalazione fatta. Noi ci siamo persi questa segnalazione ed è una cosa che reputiamo gravissima. Noi siamo conosciuti alla clientela per il nostro livello di soddisfazione e per la cultura del servizio al cliente. Purtroppo il fatto che una concomitanza di fattori negativi in un periodo dell'anno un po' particolare per noi ci abbia proprio fatto passare senza nessun tipo di interazione questa cosa, la consideriamo una cosa gravissima, e su questo stiamo già lavorando. Anche perché avete perso il cliente in questo caso. Assolutamente sì, speriamo non per sempre, però l'abbiamo perso. Anche un peccato, perché questo tipo di clienti che sono, che hanno bisogni evoluti, sono proprio i clienti che fanno per noi. Certo, infatti. Siamo in grado di dare il massimo servizio su questo tipo di bisogni evoluti. Assolutamente, infatti voi siete specializzati proprio in questo tipo di servizi. Assolutamente. Diciamo che sicuramente uno dei temi su cui andremo a lavorare, magari gli altri li vediamo dopo quando parleremo del customer care. Certo. Mi piace chiamarlo customer care, non call center, perché siamo molto più focalizzati sul cliente che non sulla, sulla chiamata, diciamo. Sì. È questa cosa della, della RID. Noi purtroppo abbiamo spiegato sul sito come funzionano coi vari giorni, cioè sono delle, ci sono delle tempistiche, diciamo così, dell'interbancario, per cui dovute alle, alle procedure interbancarie che fanno sì che una richiesta di RID poi prende corpo e prima diventa disponibile, prima diventa visibile sul conto e poi diventa disponibile. Ecco, ma io le vorrei chiedere questo adesso, Maggiore, prima di arrivare alla seconda parte, diciamo così, della segnalazione del nostro radioascoltatore, ma visto che ha subito dei, per carità di Dio, piccoli danni, ma comunque antipatici, no? Perché ecco, a questo punto gli addebiti che ci sono stati, suppongo che Fineco si farà carico di questi costi aggiuntivi per il cliente che non potevano certamente essere previsti né prevedibili. Beh, i nostri i costi sul conto nostro sono, sono assolutamente, non ci sono, cioè non ci sono stati costi per, fine, per il cliente verso Fineco dovuti a questo malfunzionamento. Beh, però lei ha... non è più nostro, nostro cliente, di conseguenza non riusciamo ad andare oltre. Però lei ha in mano la sua lettera, la lettera dell'ascoltatore come ce l'ho io, lei legge al punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al punto 7. Sì, ma su questo siamo in fase di valutazione. Io non so se, noi siamo sempre molto attenti ad ascoltare il cliente e a restituire ciò che è dovuto. Benissimo, ecco, per... noi abbiamo chiaramente visto la nostra mancanza. Ecco. Devo dire per spezzare una lancia nei confronti di chi con noi lavora nei back office, che non è un problema tecnico, ma lo ritengo un problema forte di comunicazione. Benissimo, allora per essere chiari, nell'ultimo punto della lettera del nostro radioascoltatore c'era la segnalazione di un addebito di 5,59 euro che a suo giudizio non era dovuto. Abbiamo sentito qui Maggioni dire che stanno valutando questa cosa. Rizzi, la seconda parte è quella di un call center, di un customer care service, chiamiamolo come vogliamo, che lei definisce un disastro. Sì, cioè nel senso, io non sono mai riuscito, a parte il tempo che ci vuole per riuscire a parlare con qualcuno, soltanto una volta, e quindi faccio un appunto rispetto alle osservazioni prima di Maggioni, del responsabile, del signor Maggioni, perché l'unica volta che sono riuscito a parlare con una signorina, noi abbiamo fatto il conto dei giorni che dovevano passare tra diciamo la richiesta di addebito al conto professionale e vedermi i soldi accreditati sul conto Fineco, e comunque abbiamo verificato che c'era stato un ritardo da parte di Fineco di più di una settimana. Ecco. Perché sono 12 giorni lavorativi. Bene, comunque il problema insomma è chiaro. Quello ha creato la problematica. Benissimo. Comunque il discorso è che io telefonicamente non ho mai ricevuto aiuti, nel senso che non si è dato modo di capire quale fosse il problema, e mi hanno detto scrivi al service Fineco, cioè alle mail, e ho cominciato un rapporto epistolare. Ecco, un amoroso scambio di sensi univoco con Fineco Bank, perché risposte mi pare che non abbia mai avute. Allora, no, Maggioni, per stanchezza ho, al punto mi sono arreso. Certo. Allora, Maggiore, insomma, qui la seconda parte della storia addirittura più triste, mi pare, no? Posso solo ritornare un attimo a quelle maledette spese estinzione sulle quali stiamo subito lavorando, sì. Ma non sono spese estinzione, Fineco non ha mai nella sua storia imposto delle spese estinzione al conto, solo che siamo così ingenui. Che sia ingenua Fineco Bank, francamente usi un altro aggettivo, Maggiore, che è meglio. Noi raggruppiamo, abbiamo raggruppo quei 5,59, non sono altro che i due bolli statali da 2,85 di gennaio a febbraio e gli interessi di 11 euro positivi, per cui meno 5,70 più 11 fa 5,59, non sono assolutamente spese estinzioni, questo ci teniamo perché non ha mai avuto spese estinzioni. Vabbè, ma comunque insomma ci state lavorando con il cliente, quindi poi questo lo vedete, ma quanto al fatto che il call center viene definito un disastro? Del customer care abbiamo veramente toccato il fondo. non abbiamo niente da dire. Non possiamo niente. No, abbiamo da dire, perché diciamo che l'unico momento dove siamo stati molto efficienti è stato quando il cliente ci ha chiesto l'estinzione. Vabbè, no, ma comunque devo dire però che su questo io son sicuro che sia stato sono sicuro, lo vedo tutti i giorni perché vediamo i livelli di servizio. Noi gestiamo più dell'80% delle chiamate in 20 secondi. Benissimo, benissimo. Ecco, voi sapete, cari ascoltatori, che io non faccio sconti a nessuno. Chi mi conosce, che mi sente da tempo, io mi scrive sempre, ecco. Però devo dire che ringrazio sempre, questo lo dico in maniera chiarissima, chi ha il coraggio di metterci la voce. Fineco Bank l'ha fatta, si è assunto le sue responsabilità. Purtroppo, ahimè, ci sono moltissime altre banche che hanno rifiutato più di una volta il confronto, e questo mi dispiace, perché non è democrazia questo, cioè la democrazia è dialogo e confronto, poi i casi si risolvono come in questo caso, o comunque uno viene messo a confronto con l'altro. Questa è democrazia. Allora, grazie a Magione di Fineco Bank, grazie al nostro radioascoltatore, in studio a Elisabetta Fusconi e in regia a Paolo Corleoni, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.